Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana che si apre come sempre con l'approfondimento insieme all'ADI, con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi dico una parola sola, Equitalia. E qui qualcuno toccaferro, qualcun altro fa gli scongiuri, perché insomma lo sappiamo, c'è questa novità che riguarda proprio Equitalia. Sì, è una novità che penso che in queste ore tutti siamo stati un po' abituati a sentire e che insomma ogni giorno scopriamo sempre anche qualche nuova sfaccettatura nel pacchetto che insomma il governo ha appena proposto e sta varando. Certamente è anche un tema che credo interessa un po' tutti, perché ritengo che la maggior parte di noi in un modo o in un altro con questo ente insomma ci abbiamo avuto a che fare, ricordando che è un'agenzia di riscossione, non è l'agenzia delle entrate, ma è che un indomani, cioè il prossimo anno, questa andrà a confluire presso l'agenzia delle entrate e quindi ci si augura, ma veramente lo dico come un auspicio a tutti gli ascoltatori, che si possa cominciare a ragionare con un fisco più alla portata del cittadino e soprattutto più equo su quelli che sono i balzelli che fino ad oggi hanno sempre applicato alle sanzioni e alle notifiche insomma di riscossione. Sappiamo intanto che Equitalia forse cambierà nome, no? Sì, cambierà nome, come detto, confluirà presso l'Agenzia delle Entrate, quindi un po' il referente sarà un'unica istituzione, perché bene, chiaramente là ci sarà sia l'aspetto di discussione che l'aspetto insomma dei funzionari dei fiscali, ma come ribadisco, per me non è importante il nome quanto sperare che cambi il servizio, le procedure di accesso, ma soprattutto la semplificazione e anche quelli che sono i costi accessori che fino ad oggi insomma hanno sempre spaventato un po' tutti quanti. Vogliamo un po' segnalare insomma quali sarebbero i punti di forza di questo cambiamento? Intanto bisogna spiegare a tutti che il condono, perché a questo punto bisogna parlare di un condono, riguarda coloro che hanno ricevuto notifiche entro il 31 dicembre 2015. La seconda cosa, rispetto a quella che era una procedura di pagamento che oggi prevedeva un certo numero di rate, queste potevano essere anche concordate a seconda del valore della controversia, ma poteva arrivare fino alle 48-60 rate, per chi ha ricevuto notifiche entro quella data là e deciderà di accedere al condono ce ne saranno solo 4 di rate, dove la prima riceveranno il 15 dicembre 2017 e l'ultima il 15 marzo 2018, quindi un periodo abbastanza comunque ampio per poter ragionare su un piano di rientro. Ma soprattutto ricordiamo come questo condono riguardano diversi settori, soprattutto le tasse, per chi per esempio non era in regola con i versamenti dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IRES, o per chi aveva problemi con i contributi previdenziali e assistenziali tipo l'INPS, l'INEL, rientra anche l'IVA e addirittura insomma alla fine qua c'è stato un po' di discussioni, ma sembrerebbe che rientrano anche le multe. Poi c'è una partita tutta aperta, però insomma sembra che anche qui la sanatoria voglia andare ad abbracciare quei tributi locali come l'IMU, TASI, la TARI, che invece prima erano di competenza dei comuni, quindi degli enti locali. Ecco, bisogna vedere caso per caso o in questo condono, tra virgolette, si sa già quanto si andrà a pagare? Allora, innanzitutto bisogna pensare che il contribuente potrà aderire alla procedura di condono entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme, quindi anche qui non è che si possa aspettare in eterno, ma bisogna prendersi un periodo entro il quale poter decidere cosa fare e anche abbastanza le svelte. Poi quello che cambia in maniera incisiva rispetto a quello che oggi è un sistema, invece un automatismo che veniva applicato alle sanzioni, sono che scompaiono sostanzialmente le sanzioni e scompaiono gli interessi pesanti di mora, che oggi erano il 4,13%. Quindi rimane solamente da restituire quello che è un po' il costo della, cioè la sanzione, quello che un po' era l'oggetto della contesa, e quelli che sono un po' gli agi di riscossione dell'agenzia, che insomma sono le famose commissioni. Dopodiché qua bisogna decidere se pagare in un'unica soluzione o in quattro rate, come abbiamo detto, e l'ultima deve essere il 15 marzo del 2018. Quindi abbiamo anche provato a fare un ragionamento nel caso che per esempio una persona nel 23 giugno del 2014 ha avuto una notifica di 72.851 euro di IRES, ecco, non versata nel 2010, pagherà quell'importo più gli interessi legali, si vedrà abbonato i 20.163 euro di sanzione e ben 33.856 di interessi di mora. Quindi capisci che insomma, rispetto ai suoi 143.708 di adesso, domani pagherà 88.478 euro con un risparmio del 38%. Ecco, questo era un po' un esempio, uno studio che come Adico avevamo fatto. Insomma, sono soldi. Qualcuno si era arrabbiato perché diceva con i condoni facciamo passare l'idea che allora se uno non paga le tasse, non paga determinate cose, poi un giorno o l'altro poi andrà a risparmiare, e quindi c'era questa cosa che... Sì, però non è neanche giusto che uno che insomma aveva una pendenza di 72.000 euro gliene chiedevano 143.000 come oggi, quindi bisogna trovare comunque un punto di incontro che permetta a chi non ha pagato di pagare e chi di riscuotere, di poter ricevere la somma. Oggi come la cosa funzionava, certamente non era un fisco sicuramente d'aiuto al cittadino, ma creava veramente grandissimi disagi. Poi una cosa che è molto importante è che quel che finora si è versato per interessi di mora di sanzioni non si può recuperare più. Ecco, questo. Quindi qualcuno, chi ha già un procedimento in corso e decide di aderire al condono, non può pensare di recuperare quello che da domani non si pagherà. E anche qua possiamo aprire scuole di pensiero diverse. Certo. Carlo, un'ultima cosa, se qualcuno ha bisogno, l'Adico può dare una mano? Beh, noi sicuramente in queste ore ci stiamo attrezzando e stiamo predisponendo i moduli per poter accedere al condono. Se uno ci chiama oggi magari no, ma da domani sicuramente sì. Come detto, è una norma che è stata approvata qualche ora fa, noi ci stiamo organizzando, gli uffici legali sono a pieno regime, quindi avremo bisogno di qualche giorno lavorativo, ma sicuramente, come abbiamo sempre fatto, saremo in grado di dare un aiuto a tutti anche per questo tipo di problematica o di occasione se interpretata diversamente. Ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Carlo Garofolini, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.